Essere e benessere di Nicoletta Carbone. E la bobina continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola. E noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare. E con la base non si può suonare, non si può sbagliare. Perché? Perché ci vuole orecchio. Buongiorno a voi. A proposito di orecchio, quali sono le parole che non vi piace sentire, che vi danno più fastidio e quelle che amate di più? 800 24 00 24. Possono essere modi di dire, storpiatori, tormentoni, ma anche complimenti, freddure. L'orecchio di Radio 24 è pronto ad ascoltarvi e qui pronto ad insegnarci a prendere cura delle nostre orecchie e del nostro udito il dottor Alberto Dragonetti, primario dell'unità operativa complessa di otorino laringoiatria all'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ci sente bene? Sì, perfetto. Al momento sì, per l'età che ho ci sento bene, grazie. L'orecchio è un organo, l'udito un senso. Le maestre dicevano così e ci insegnavano così quando eravamo piccole. E queste, orecchio e udito, saranno anche le parole chiave della trasmissione di oggi. Che dice? Le piace come idea? Assolutamente sì, vorrei precisare che l'orecchio è la parte anatomica che fa confluire i suoni a livello dell'orecchio interno e quindi l'udito invece è l'organo di senso, è uno dei 5 organi di senso, molto importante perché gli organi di senso sono quelli che ci permettono di percepire la realtà che abbiamo intorno. Assolutamente. L'orecchio può far male, l'udito può calare, però niente paura, tutto c'è rimedio e con un po' di attenzione si può evitare, dottore, di correre ai ripari. Udito e orecchio hanno tanti amici e noi impareremo a conoscerli, ma è importante anche conoscere i punti deboli del nostro orecchio, che in alcuni casi, in certi momenti della nostra vita, può essere particolarmente sensibile. Quindi, se voi siete delicati d'orecchio, se vi basta un colpo di freddo per prendervi un'otite, se il vostro orecchio si tappa, se vi pare che il vostro udito in situazioni particolari non sia più quello di una volta, non esitate a chiamarci. 800 24 00 24. Qua in regia abbiamo Carmelo Lauricella che mi sta dicendo: io ci sento bene, vedremo. E dottor Dragonetti, orecchio e udito non sono naturalmente due mondi separati, le connessioni ci sono e sono molto strette, uno aiuta l'altro, si può dire. Esattamente, l'orecchio è quell'organo che ci permette di convogliare i suoni all'interno dell'apparato sensoriale, cioè l'udito, e quindi sono assolutamente importanti. Esiste poi tutta la trasmissione dei suoni che noi percepiamo a livello centrale. Possiamo dire che l'orecchio è l'apparato analogico e l'udito è l'apparato digitale che scompone i suoni in elettricità, in impulsi elettrici che poi vengono percepiti e di nuovo ricomposti a livello centrale. Ci sono poi delle malattie, dei disturbi che all'orecchio che possono interferire e influire sul nostro udito. Mi viene in mente l'otite. È la classica. Otiti trascurate alla fine possono darti quella sensazione di ovattamento, oppure, come tante volte ricevo delle mail dei nostri ascoltatori, non sento più bene come una volta perché quest'inverno ho fatto un'otite dietro l'altra. E questo è un inverno particolarmente freddo, quindi orecchie a rischio? Assolutamente sì, possiamo dire che ci sono due patologie grosse: le patologie esterne e le patologie dell'orecchio medio. Quindi la patologia esterna è una patologia che interessa l'orecchio, sì. Invece l'orecchio medio, che è quello che ci permette di trasportare i suoni a livello dell'orecchio interno, invece è oggetto di patologie soprattutto di tipo infiammatorio, l'otite. Per evitare che l'otite in qualche modo diventi degeneri, che cosa possiamo fare? Evitare di prenderla, no? E ci sono dei consigli già. Evitare di prenderla, sicuramente alcune accortezze. La principale sono gli sbalzi di temperatura. Sì, quindi sembra una banalità, ma è meglio ricordarla. Assolutamente. Pensiamo anche che i bambini in questa stagione che vanno in piscina o vanno in palestra, fanno dello sport, ci sono sicuramente dei grossi sbalzi di temperatura. Quindi primo consiglio è quello di proteggere da questi sbalzi, quindi non essere troppo coperti all'interno né troppo scoperti all'esterno. Questa è la prima avvertenza. L'altra cosa che secondo me è molto importante, che se dopo un giorno o due di dolori all'orecchio, almeno rivolgersi, se sono bambini, al pediatra, se sono adulti al proprio medico curante per iniziare una terapia antinfiammatoria. Vito ci chiama da Trieste all'800 24 00 24. Vito, buongiorno. Buongiorno e buona giornata anche a lei. A tutti, Vito. A tutti voi. Praticamente io ho un problema, saranno 10 anni, però 3 anni fa ho avuto circa di media 8 otite all'anno. Tante. Poi sono andato anche da un bravo a Torino, però non mi ha risolto il problema. Il problema l'ho risolto io da solo, che quando vado fuori di casa, oltre che la berretta devo mettermi anche un po' di ovatta nella parte dell'orecchio destro, perché con i sbalzi di temperatura mi vengono sempre le otiti. Vado in piscina, ho i tappi, poi vado fuori, mi metto l'ovatta, così ho risolto, diciamo, vede, altro che il problema. Vede, Vito, altro che Torino. Dottor Dragonetti, ha visto? Vito ce l'ha fatta. Vito ce l'ha fatta, sì. Poche parole, un po' di ovatta, il tappo e via che si va. Probabilmente non è un problema grave, mi verrebbe da dire. Probabilmente era una forma di otite esterna, e quindi proteggendo e curando la parte esterna dell'orecchio ha risolto il suo problema. Dottore, molti otorini, quando ci viene l'otito, abbiamo mal d'orecchio, ci dicono: ma lei ha avuto un raffreddore? Ecco, perché tante volte il raffreddore può degenerare in otite. Quindi il consiglio di oggi è: lavate bene il naso. Allora, ecco, innanzitutto una premessa, c'è uno stretto collegamento fra naso e orecchio. Questo stretto collegamento si chiama la tuba di Eustachio, che tutti conoscono, perché l'orecchio deve essere ventilato, deve essere correttamente ventilato attraverso il naso. Quindi è ovvio che tutte le patologie del naso possono influenzare anche l'orecchio. Faccio un esempio molto banale, ma che è ricorrente, per esempio nei bambini che hanno le adenoidi e quindi ostruiscono la ventilazione della tuba e quindi hanno molte otiti. Quindi in questi casi, specie nei bambini, insisto, perché sono quelli più soggetti a questo fenomeno, una corretta igiene del naso con semplicemente dell'acqua e sale, perché ci sono molti prodotti in commercio. Però se una mamma prepara una soluzione di acqua tiepida e non bollente, con un pizzico di sale, non quello che la manciata per far la pasta, perché altrimenti abbiamo una soluzione ipertonica. Semplicemente questo piccolo rimedio, tutte le sere, la mattina, nel palmo della mano far tirar su al bambino, se è in grado, l'acqua con il naso. Altrimenti ci sono dei prodotti molto comodi, spray, che però sono o di soluzione fisiologica o addirittura un po' più costosi, quelli delle acque esotici, quelli delle acque di mare. Abbiamo in linea con noi Giorgio, ci chiama da Pisa. Buongiorno Giorgio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Io avrei un piccolo problemino all'orecchio destro. A volte mi sembra di averci un tamburo nell'orecchio e quando rispondo al cellulare e metto l'apparecchio sull'orecchio destro sento le voci vibrare. Solo con l'orecchio destro, Giorgio? Sì. Meno male che ne abbiamo due, può passare all'orecchio sinistro, ma il dottor Dragonetti, che è un otorino, darebbe sicuramente una risposta diversa. Allora, in questo caso occorrerebbe, premesso che in questi casi bisognerebbe sempre valutare l'obiettività del timpano. Ci possono essere delle situazioni, noi sappiamo che la membrana timpanica ha una componente elastica. Allora, qualsiasi patologia, anche pregressa in età infantile, che abbia, per dire, un'otite che ha esitato in una piccola cicatrice, altera la vibrazione della membrana timpanica. È una vibrazione sottilissima, delicatissima, quindi è evidente che se noi alteriamo questo strato elastico, la vibrazione non è più percepita in maniera normale, ma può dare delle risonanze, delle rimbombate. Anche a distanza di anni. Assolutamente, ci sono delle forme di timpano, cioè di sclerosi, di rigidità della membrana timpanica che possono emergere nel tempo. Allora, quindi, e questo è quello che può essere capitato al nostro ascoltatore. A distanza di tempo, insomma, la membrana del timpano non è si più è sì, così flessibile, così elastica, ed ecco che avvertiamo questa sorta di rumore, di fastidio. Esatto. 800 24 00 24, se volete anche raccontarci le cose, le parole che non vi piace sentire, che vi danno più fastidio, potete farlo anche al 349 238 6666, dirci anche quelle che vi piacciono. Lo state facendo anche, mi immagino, sul nostro profilo Facebook, e vi ricordo che siamo anche su Twitter, e noi continuiamo a parlare degli amici delle nostre orecchie e del nostro udito. Tra gli amici del nostro udito, pensate, c'è anche una vitamina. In linea con noi abbiamo il professor Fabio Galvano, che è associato di scienze dietetiche applicate all'Università di Catania. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Fa freddo o freddino? No, devo dire che oggi è un po' meglio che ieri. Ah, bene. Allora, professore, vitamina? Sì, almeno un paio forse. Bene. Mi riferisco in particolare all'acido folico, che sicuramente molti conoscono perché viene, la cui integrazione viene applicata in gravidanza. Sì. E insieme a lui la vitamina B12. Perché? Perché entrambe sembrano avere hanno certamente un effetto nel fare abbassare l'omocisteina, che è un parametro ematico che molti di noi probabilmente, quando fanno le analisi, vanno a misurare. Sì. La quale omocisteina, oltre ad essere un diciamo ormai abbastanza ben identificato fattore di rischio cardiovascolare, sembra avere qualche implicazione anche appunto nella salute dell'orecchio. Quindi abbassando l'omocisteina probabilmente andiamo a proteggere, oltre che il nostro cuore, anche il nostro orecchio. Ci sono altri alimenti, me li lasci definire così, professore, salva udito? Più che di alimenti salva udito, parlerei di dieta nel suo complesso. E questo sì. Perché? Perché oltre all'acido folico e alla vitamina B12 abbiamo per esempio gli acidi grassi monoinsaturi. Un alimento particolarmente ricco di acidi grassi monoinsaturi è il nostro ottimo olio d'oliva, sì, che per oltre il 70% è costituito da acido oleico, che è appunto un acido grasso monoinsaturo. Altro gruppo di acidi grassi che possono avere qualche effetto protettivo sono gli omega 3, che invece sono presenti nel pesce. Quindi se facciamo la somma di acido folico che troviamo soprattutto nella frutta e nella verdura, acido grassi monoinsaturi che troviamo nell'olio d'oliva e gli omega 3 che troviamo nel pesce, ci accorgiamo che in fondo stiamo parlando di tre cardini della dieta mediterranea, cioè le famose 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, l'utilizzo dell'olio d'oliva come grasso primario e tre volte alla settimana almeno consumare del pesce. Tutte queste tre sono appunto tre cardini della dieta mediterranea. Professore, possiamo anche ricordare brevemente i nemici del nostro udito? Anche in questo caso, come gli amici non sono solo amici dell'udito ma anche del cuore, anche in questo caso tra i nemici troviamo i grandi nemici della salute in generale e del cuore in particolare. E quindi mi riferisco in particolare a che cosa? Al controllo della glicemia e del diabete, che anche in questo caso sono in grado di fare tanti guasti, e quindi anche sull'orecchio. Aggiungere il colesterolo, e anche in questo caso è un fattore di rischio per ben altre malattie, e non ultimo, ma certo non in ordine di importanza, il fumo, che è sicuramente un fattore di rischio molto importante anche per l'udito. Anche il fumo passivo, vero professore? Anche il fumo passivo, certamente, sì. Intanto, professore, noi abbiamo chiesto agli ascoltatori di dirci le parole che amano sentire, quelle che invece non gradiscono, quelle che le danno più fastidio. Lei ha qualche parola che le piace sentire in modo particolare? Che detesta? Qualche parola che mi piace sentire, questa è una bella domanda. Tutte le parole dolci sono sempre ben apprezzate. Mentre quelle che le danno fastidio? Quelle che fanno fastidio, più che le parole, a volte danno fastidio i toni, secondo me. Quindi i toni accesi, i toni aggressivi, quelli sicuramente danno fastidio. Grazie professore per essere stato con noi, buonissima Grazie giornata. A voi. Buona giornata anche a voi. Mi piacciono tutte queste parole, meraviglioso, sorprendimi, ciao e tante altre, mentre il modo di dire, mi passi il termine, è proprio un modo di dire che Simona non ama. 800 24 00 24, vorrei raccoglierli e vedere anche se ci sono delle differenze tra uomini e donne. A me ha solo a sentire il rumore mi si tappano le orecchie, è un classico. Succede anche a voi? E che cosa fate? Sbadigliate, bevete un sorso d'acqua, deglutite, con il naso tappato, masticate una gomma? Dottore, a volte le orecchie però si tappano anche senza salire in quota e si avverte quel senso di ovattamento, posso dirlo così, che insieme al dolore e al prurito è uno dei sintomi di più frequente consultazione dell'otorino. Stiamo all'ovattamento, lo sappiamo che quando andiamo in aereo, soprattutto se sono viaggi brevi, le nostre orecchie possono darci fastidio, ma il disturbo passa con piccoli trucchetti che tutti noi conosciamo. Può capitare la stessa cosa quando saliamo in montagna, di questo siamo abituate, ma ci sono dei momenti in cui l'orecchio senza nessuna ragione si tappa e avvertiamo proprio questo senso di ovattamento. Che cos'è? Allora, innanzitutto occorre distinguere l'ovattamento temporaneo e l'ovattamento permanente. L'ovattamento temporaneo, come dicevo prima, è il più delle volte determinato da un'insufficienza di ventilazione della tuba di Eustachio per vari motivi. Siamo in quota, sì. Ovviamente. Questo, un banale raffreddore ti può tappare l'orecchio anche qua in città. E questo, ripeto, è solo un problema di tuba che, a mio parere, con un po' di lavaggi, aerosol, a volte insufflazioni anche forzate, si può risolvere. Ovviamente chi soffre di questi disturbi, se va in quota, l'aereo, soprattutto nelle corte distanze, ma anche chi banalmente prende la funivia, per esempio, mi è capitato. Allora, in questo caso, io consiglio soprattutto di masticare la cicca, prima e durante. Sì. Questo è il mio consiglio. Vorrei dire una cosa, una precisazione, invece, sull'ovattamento permanente. Perché, soprattutto se in un orecchio solo, bisogna assolutamente ricorrere allo specialista per approfondimenti diagnostici. Di solito quando il problema lo avvertiamo in un orecchio solo, lì è un piccolo campanello d'allarme. Sì. Meglio avere, già che ne abbiamo due, avere il disturbo da tutte e due le orecchie. E in questo caso è meglio. Come regola generale. Sì, come due è meglio di uno. Faustino da Livorno, buongiorno Faustino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Due domande rapidissime, professore. Perché quando il gesto sulla lavagna stride automaticamente si prova un brivido addosso? E poi se è più giusto pulire le orecchie usando il classico cotton fioc oppure ricorrendo all'antico speculo dei romani a forma di cucchiaino arrotondato? No, io questo, mi scusi Faustino, questo non lo so, cioè che cosa fa il cucchiaino arrotondato? Gli antichi romani usavano degli oggetti ricavati dall'osso a forma di piccolo cucchiaino per pulirsi le orecchie, gli speculi piccoli con cui si pulivano le orecchie all'interno. È l'antesignano del cotton fioc. Sì, esatto. Ma è più giusto usare il cotton fioc oppure un metodo in maniera delicata che si rifà al metodo degli antichi romani? Degli antichi romani. Poi anche il gesto sulla lavagna, perché provoca quella involontaria reazione di lei frequenta spesso lavagne e gessi? No, li evito proprio perché mi dà la sensazione sgradevole. Allora, dottore. Allora, innanzitutto lo ringrazio per questa domanda perché mi permette di dire due cose importanti. Sì. Sulla prima, lo stridore, come quando anche si passa il dito sul bicchiere ad alcuni dà fastidio, no? Allora, ognuno di noi ha una sua sensibilità. Voi, tutti noi ormai usiamo radio, autoradio, stereo, se possiamo regolare i bassi e gli alti a nostro piacimento, no? Il nostro orecchio ha un'autoregolazione che è diversa da persona a persona. In inglese si chiama loudness, che significa sensibilità. Ci sono delle persone sicuramente più sensibili a livello di udito di altre. Capita spesso fra marito e moglie, a udito normale entrambi, che uno voglia sentire la televisione più alta, uno più bassa. Parlo un po' dell'esperienza personale, perché ognuno ha una sua sensibilità e quindi questo. Non c'è nulla da fare, c'è chi si tiene i brividi, i brividi di passione, i brividi da lavagna. È una propria sensibilità, si chiama quello. Così. Sull'altro vorrei fare una premessa di assoluta importanza. Il cerume non è sporco, il cerume è una sostanza protettiva, io questo lo dico spesso ai miei pazienti, quindi l'utilizzo di cotton fioc o di qualsiasi altro strumento è assolutamente da proibire, al di là della pericolosità, ma proprio perché è contro la fisiologia. Ma lei, scusi, se le lava le orecchie? Esatto, bisogna lavarle esternamente con il dito. Ah, e non solo, molto più semplice. Con sapone neutro. Con sapone neutro, io lo dico spesso ai miei pazienti, proprio di lavarsi esternamente, asportare la parte esterna. La parte interna ha una funzione protettiva. Quindi lasciamola lì. Assolutamente. Meglio, meglio un po' di sporchino piuttosto che... Ma quando si formano i tappi, ci si rivolge o ai vecchi medici di famiglia che sapevano pulire le orecchie col lavaggio, oppure si va dallo specialista che è molto meno pericoloso. Che è molto meno pericoloso. Assolutamente. Di fare... Di asportarli col cerume, con cucchiaini romani e compagnia cantanti, come si dice. Daniele da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Daniele, pensi alle parole che le piacciono e a quelle che non le piacciono prima di fare la domanda, perché io la porto con me a sentire i mercati e poi il meteo. Essere e benessere. Siamo tornati insieme in linea, abbiamo Daniele da Treviso. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Ha pensato alle parole che le piacciono e quelle che invece detesta? Beh, quelle che mi piacciono in particolare non mi viene in mente niente, perché trovo più bellezza nella sostanza di un discorso che nell'estetica delle parole. Invece quelle che non mi piacciono sono le blasfemie, chiamiamole così. Hanno il potere di indispormi in maniera eccezionale. Intanto le leggo quelle di Marisa. Detesta, assolutamente, sì o no, mi consenta, e infine gettare il bambino con l'acqua sporca, immagine sconvolgente. E invece per Carla, quando si inizia un discorso con niente, di solito ci sono delle persone che proprio lo usano come attacco. Molti detestano il modo di salutare salve, ma Daniele, veniamo a noi, al nostro orecchio, non solo alle parole che sentiamo, ma a come sentiamo le nostre orecchie e il nostro udito. Io volevo fare una domanda appunto sull'ascolto della musica. Sì. Per un audiofilo a casa la soluzione sono i classici cuffioni, credo che si chiamino circumaurali o qualcosa del genere, che hanno una qualità molto alta, ma in giro ormai la soluzione unica sono gli auricolari. Sì. Adesso è uscita una nuova categoria che sono quelli in-ear, che hanno una specie di isolante e vanno inseriti proprio nel canale auricolare. Sì. E oltre a offrire una qualità superiore, isolano dall'esterno, consentendo anche di mantenere il volume molto più basso e quindi di violentare meno l'orecchio e di non disturbare i vicini di treno. Per questo farei le crociate per questa categoria. Però ho il sospetto sul fatto che portino dello sporco più vicino al timpano. Questo è un po' il dubbio di Daniele. Dottor Dragonetti, mi sembra molto preparato in materia. Sì, devo dire, sono assolutamente d'accordo con lui. Allora, innanzitutto occorre fare una precisazione. Tanto io sono uno a cui piace ascoltare la musica a volumi molto alti, quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra. Comunque, sicuramente il sottoporsi in continuo, quindi per tante ore, tutti i giorni, ad un ascolto ad alto volume, sicuramente questo, cuffie intra, cuffie extra, non cambia nulla. Sì. Quindi il problema è il volume di ascolto. Sì. No? Penso magari chi va spesso in discoteca ha dei volumi altissimi, anche una volta alla settimana, questo può portare dei danni. Sicuramente quindi va benissimo le cuffie, ma se uno le ascolta tutti i giorni a volume altissimo si può procurare però queste trauma. Che ci diceva Daniele permettono queste, di avere un volume più basso, esattamente, ma è sempre l'utilizzo, perché... le ore di ascolto. Beh, che comunque possono... l'utilizzo, le ore quante di ascolto, quante devono essere? Quanto possiamo, ad esempio, per chi fa il pendolare, ma allora, e si fa un'ora di viaggetto all'andata e una al ritorno, due ore di esposizione, sono troppe o poche? Il problema è quanti decibeli mettiamo nell'orecchio. Il trauma acustico, classicamente, è un'esposizione oltre le 3-4 ore a 80 decibel, oltre gli 80 decibel, questo ti espone a un trauma acustico. Purtroppo non c'è nella regolazione dei nostri volumi decibel, si va più o meno a mano, è manuale. Ecco. Quindi sicuramente un volume molto, molto alto che supera gli 80 decibel secondo me si supera abbastanza facilmente, per 2 o 3 ore può provocare dei danni se si fa un utilizzo quotidiano. Sicuramente queste cuffie intra-auricolari riducono il disturbo esterno magnificando soprattutto la nitidezza del suono, però bisogna stare attenti. Per quanto riguarda il dubbio se spingono lo sporco in profondità, assolutamente sì, lo vediamo spesso anche in quei pazienti portatori di protesi intraauricolari che per motivi estetici sono preferiti a quelle esterne, e vediamo che spesso si formano dei tappi di cerume che vanno periodicamente rimossi. Quindi il pericolo di queste cuffiette è questo, spingersi il cerume in profondità. Gli dèi hanno dato agli uomini 2 orecchie e una bocca per poter ascoltare il doppio e parlare la metà. Talete. A differenza degli occhi, le orecchie non si possono chiudere, non si può scegliere cosa sentire o che cosa non sentire, ma si può scegliere se limitarsi a sentire o mettersi nella condizione di ascoltare. Noi spesso usiamo questi due verbi come sinonimi, in realtà c'è una differenza. Infatti il dizionario del Devoto Oli alla voce ascoltare sottolinea proprio la dimensione della volontà di trattenersi di proposito ad udire attentamente, e infatti c'è scritto: trattenersi di proposito a udire attentamente, prestare la propria attenzione o partecipazione a qualcosa in quanto oggetto o motivo di informazione o di riflessione o di devozione, ma anche accogliere benevolmente, esaudire. E c'è anche un modo di stare nel porgere orecchio. In linea con noi abbiamo la dottoressa Laura Bertelè, ortopedico specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa e direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo. Buongiorno dottoressa Bertelè. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. A proposito di udito e di ascolto, autrice di Ascolta e guarisci il tuo corpo, un libro che insegna proprio ad ascoltare il nostro corpo. Dottoressa Bertelè, le nostre mamme dicevano: stai composta quando la maestra spiega, bella dritta, così capisci bene. Non so se lo diceva solo la mia mamma a me, che ero sempre un po' agitata, ma penso che qualcosa di vero ci sia in questa raccomandazione. C'è infatti proprio anche un modo di stare per ascoltare. Sì, è molto vero questo discorso della posizione. In effetti, se voi pensate ai banchi che c'erano nella mia generazione, che erano quei banchi di legno alti, predisponevano a un buon ascolto, in quanto si era obbligati a stare dritti. C'era un sedile corto, sì. Si era obbligati, si aveva il banco dietro nella schiena, quindi si era molto spinti a stare eretti. Sì. Se si è eretti con la schiena e con la testa ben, come se si fosse appesi a un filo verso il soffitto, anche la coclea assume una posizione corretta, il conduttore uditivo esterno anche, e quindi i suoni vengono convogliati più facilmente nell'orecchio e quindi poi analizzati con più facilità. Perché è vero, dottoressa Bertelè, leggevo delle cose di Tomatis, che questo medico francese, giusto, audiologo. Che il suono colpisce alcune parti del nostro corpo e non altre. Diciamo che sono preferite le zone in cui sono più distribuiti quelli che si chiamano i prestocettori, cioè dei recettori sulla pelle che sono sensibili alle vibrazioni. Sì. E sono la parte interna delle braccia, la parte davanti del torace, la parte interna delle cosce. Quindi se una persona vuole ascoltare, è disponibile e vuole dare anche l'atteggiamento proprio di ascolto è quello con le braccia non incrociate, le gambe non incrociate e che il petto verso la persona che gli parla. Infatti i bambini autistici ad esempio spesso girano le spalle, sì, proprio perché porgono a colui che comunica con loro la schiena, che ha pochissime zone sensitive. A proposito di posture, dottoressa Bertelè, ce ne sono alcune che noi adottiamo quando siamo in ascolto o stiamo sentendo, ad esempio al telefono o quando usiamo il cellulare, posture che rischiano di farci sentire a distanza non parole ma dolori. Ad esempio un classico è tenere il cellulare schiacciato tra l'orecchio e la spalla, oppure la cornetta del telefono appoggiata malamente intanto che continuiamo a scrivere al computer. Dottoressa Bertelè. Beh, ecco, chiaramente sarebbe importantissimo tenere sempre una posizione retta mentre si parla, ma io stessa quando telefono spesso faccio altre cose, quindi tengo la cornetta, ma è molto negativo perché si irrigidiscono i muscoli e alla fine si hanno problemi cervicali e anche di tutto il resto della colonna. Bisognerebbe essere sempre in una posizione comoda, con la schiena dritta, le braccia appoggiate, in modo di intanto ascoltare meglio e poi di non avere problemi di schiena a lunga scadenza. Dottoressa Bertelè, prima di salutarci, mi dice una o due parole che le piace sentirsi dire, due o tre parole che invece detesta, non ama ascoltare, sentire? Ma quant'altro, mi sembra. Quant'altro è una parola che non mi piace. O tutto di più. Ecco, sono queste cose che si sentono mai spessissimo nei discorsi anche alla televisione. E invece, beh, direi un italiano corretto, io trovo che è comunque sempre una musica quando viene parlato in maniera corretta. Serena invece ci scrive: amo queste parole, ciao tesoro, ghiaccio, gioia, viola. Quelle che non amo, Mazda, perché non riesco a pronunciarlo bene, trendy, o quando mi dicono subito e poi... quando di solito ti dicono subito vuol dire che devi aspettare. Grazie dottoressa Bertelè. Grazie, per essere stata con noi. Ricordo l'ascolto e guarisci il tuo corpo, Mondadori Editore. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo di nuovo insieme con voi, col vostro udito e le vostre orecchie, 800 24 00 24, ma anche con le parole che amate e quelle che invece vi danno un po' fastidio. Essere e benessere. Eccoci, siamo di nuovo insieme, potremmo scrivere un piccolo elenco delle parole che ci piacciono e di quelle che non ci piacciono. Anche Gianni concorda, non gli piace assolutamente sì, assolutamente no, mentre Anna da Milano trova odioso il termine la verità vera, come se ce ne fosse una falsa. Nilde: detesto, ho un carattere forte, sono una persona solare, si sente spesso. Ma a proposito di ascoltatori che ci scrivono al 349 238 6666, dottor Dragonetti, io vorrei che lei rispondesse alla nostra amica che si mette i tappi perché ha un marito che russa. Rischia o fa bene? Fa bene perché così dorme, non potendo cambiare marito. Ma le sue orecchie? Direi che innanzitutto è un'esperienza, è un racconto che sento abbastanza. è la fase che precede la separazione delle camere. Quindi, essendo moglie e marito, direi che come primo rimedio è assolutamente, assolutamente tollerabile e consentito, perché sicuramente a volte queste situazioni hanno anche messo in crisi dei rapporti, quindi i tappi sono assolutamente consentiti. E le orecchie non rischiano? No, rischiano solamente... Puliamoli un po', spingere, i tappi. Sì, vanno puliti, vanno disinfettati e bisogna stare attenti a che non spingano il solito cerume all'interno dell'orecchio. Mauro da Olbia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci racconti, Mauro? Niente, io volevo dire... Vede allora, che ha detto niente come la prima parola, Mauro! L'ho beccata, eh? Allora... Sì. Vai. Allora, io ho il setto nasale leggermente storto e volevo sapere, cioè sicuramente crea ascoltando la trasmissione, un piccolo problema all'udito, un senso di ovattazione, e volevo sapere se un'operazione risolve, anche una piccola operazione, al 100% il problema, diciamo. Quindi raddrizzando il naso si toglie il problema. Sì, grazie anche di questa domanda. Allora, il setto nasale deviato innanzitutto produce una difficoltà di respirazione nasale. In alcuni casi può dare anche disturbi all'orecchio, quindi innanzitutto bisogna fare degli approfondimenti. Comunque l'equazione raddrizzare il setto e scomparsa dell'ovattamento, assolutamente no. Uno si deve fare operare al setto nasale primariamente per respirare bene. E poi? E poi, se ci sia qualche incrociando le dita, può anche scomparire l'ovattamento, però bisogna fare anche degli accertamenti prima dell'intervento. Comunque non si può garantire la scomparsa dei disturbi auricolari solo con l'operazione del setto. Cosa ne dice di, come dire di, lo usano tutti in continuazione anche in TV, un ascoltatore assolutamente contrario a questi modi di dire. E abbiamo anche Thomas che ci chiama da Treviso. Thomas, buongiorno. Buongiorno a voi e alla trasmissione. Ma io non so dire esattamente le parole che mi piacciono o che amo, anche se lavoro nel campo della linguistica per quel che riguarda copywriting. Quello che posso dire è però che non so da dove sia nato il termine quant'altro, ma reputo che sia utilizzato fin troppo a sproposito, ma soprattutto senza nemmeno un reale senso. E ogni volta che sento la parola quant'altro a chiosa di un discorso senza che si chiuda, mi vengono proprio i brividi. Brividi, quei brividi che al nostro ascoltatore venivano quando sente il gessetto sulla lavagna. Grazie Thomas che ci ha chiamato da Treviso all'800 24 00 24, ma io volevo parlare anche di suoni che ci piacciono, che ci fanno bene. Con il dottor Dragonetti parlavamo prima di entrare in trasmissione dell'orecchio assoluto e io gli ho detto: stia lì dottore, perché in linea con noi avremo anche la professoressa Luisa Lopez, che è in linea con noi. Infatti buongiorno, bentornata. Buongiorno a voi, buongiorno. Responsabile medico dell'ambulatorio di neuropsichiatria del villaggio Eugenio Litta di Grottaferrata e consulente scientifico della Fondazione Mariani per il progetto Neuroscienza e Musica. Professoressa Lopez, sono le note o il ritmo che producono in noi, no, questa sensazione di benessere? Beh, su questa domanda devo dire molti ricercatori si combattono fra loro, perché c'è chi dice è una o l'altra o entrambe. Di fatto sono delle componenti del suono che sono insieme, sono quasi inseparabili, però è chiaro, i ricercatori sono bravi, no, a dividere le cose e quindi a cercare di capire. Addirittura i compositori usano il ritmo per farci capire quali sono le parole più importanti di una canzone, e questa cosa l'hanno studiata, hanno visto che l'elettroencefalogramma ce lo dice: noi aumentiamo l'attenzione proprio lì dove il compositore vuole che noi la mettiamo questa attenzione, e quindi cerchiamo di capire meglio quando il ritmo ci porta in quella direzione. Quindi il ritmo è tanto, ed è tanto anche per farci imparare, per guidarci nell'ascolto, e lo usano tutti i compositori e lo usavano i compositori della musica classica. Quindi ritmo e note insieme, assolutamente. Assolutamente, noi siamo, lei dottor Dragonetti concorda? Sì, assolutamente, anzi io, come le dicevo prima, sono un patito di musica, e infatti le orecchie non solo ci permettono di ascoltare i discorsi, ma io pensavo anche durante la trasmissione, ci permettono di ascoltare i suoni della natura, anche per esempio le onde del mare o il silenzio di una montagna. Sulla musica secondo me è forse quell'espressione dell'arte umana che eccita soprattutto l'orecchio, così come un quadro può eccitare la vista, e soprattutto ci permette di cogliere quell'armonia, di connettere l'armonia della musica con l'armonia del creato. E questo lo vedo sia nella musica classica, e mi permetta di dire, in alcuni aspetti della musica moderna. Ma è certo, lei può dire tutto quello che vuole, io concordo. Professoressa Lopez, abbiamo pochi minuti, ma noi abbiamo letto e commentato con lei numerose ricerche che suggerivano alcuni tipi di musica per chi volesse aumentare le prestazioni durante un allenamento, che per altri tipi di musica per calmare l'ansia, per ritrovare l'energia. Tra l'altro si dice che chi ascolta e anche chi suona uno strumento musicale preserva in qualche modo l'udito più a lungo. Professoressa Lopez, proprio in un minutino. Guardi, allora su questo del preservare l'udito si sono fatte ricerche e si dice che chi è allenato, ha un orecchio musicale allenato, riesce a percepire meglio per esempio il linguaggio in un ambiente rumoroso, oppure anche ovviamente a selezionare meglio le note in un ambiente rumoroso, il che è utile poi anche da più grandi, ed è utile come funzione, quindi senz'altro questo. Ma io vorrei anche dire che la musica non è da prescrivere in pillole. Credo che la cosa che anche diceva lì il collega, e mi sembra molto importante dire, che anche la musica moderna, oltre alla musica classica, cioè alla musica bisogna essere esposti, bisogna poterla conoscere per poterla poi scegliere, perché è una fonte di benessere, e noi dobbiamo trovare delle rispondenze. Devo salutarvi ringraziando la professoressa Lopez, il dottor Dragonetti, voi che avete partecipato, ma vi voglio dire che è possibile ascoltare i suoni del mare, i rumori del fondo dell'oceano direttamente dal web, se volete. Se andate sul sito Lido e ascoltate, ci sono balene, frusci, onde. Noi ci sentiamo domani, io devo scappare, grazie, buona giornata.